Seconda unità. Di chi è? Dialogo. In biblioteca. Scusa, è tuo questo libro? Quale? Questo qui. Ah, sì, è mio, grazie. Che bella penna. Anche questa è tua. No, quella non è mia, purtroppo. Allora di chi è? Forse è di quel signore là. Scusi, è sua questa penna? Sì, è mia, grazie tante. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Scusa, è tuo questo libro? Quale? Questo qui. Ah, sì, è mio, grazie. Che bella penna. Anche questa è tua? No, quella non è mia, purtroppo. Allora, di chi è? Forse è di quel signore là. Scusi, è sua questa penna? Sì, è mia. Grazie tante. Vocaboli, pagina 59. Libro. Penna. Cappotto. Giornale. Cappello. Chiave. Borsa. Quaderno. Ombrello. Matita. Giacca. Rivista. Vocaboli, pagina 60. Biglietto. Sigaretta. Lettera. Camicia. Orologio. Accendino. Guanto. Sciarpa. Specchio. Disco. Macchina fotografica. Vocaboli, pagina 61. Anello. Camicetta. Abito. Gonna. Portafoglio. Cravatta. Vocaboli, pagina 62. Pantaloni. Calze. Scarpe. Fotografie. Cerini. Occhiali. Cassette. Vocaboli, pagine 66 e 67. Bianco. Nero. Rosso. Giallo. Blu. Grigio. Verde. Marrone. Rosa. Arancione. Seconda unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 18. A casa. Anna, Paolo, è tardi, sono le 8 meno 10. Siete pronti? Anna, prendi i tuoi guanti. No, quelli non sono i guanti di Anna, sono i miei. Ah, ma questa è la tua sciarpa, no? Anna, dico a te. Quale? Ah, sì, è mia. Beh, mettitela presto. Ma, e i miei occhiali? Dove sono i miei occhiali adesso? Oddio, se non ho gli occhiali non posso guidare. Ma mamma, sono qui, sul tuo naso. Esercizio 19. Questa borsa è sua, signora. Quale accendino è tuo? Questa giacca non è mia. Allora, questo libro è di Marco? Il tuo giornale è questo o quello? Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 75. Vedi quell'abito lì in vetrina? Quale dici, quello rosso? No, quello verde, corto, con la sciarpa dello stesso colore. È bello, vero? È bello, sì. È di Armani. Ma non è di Valentino? No, è proprio di Armani. Lo stile è inconfondibile. Bella anche quella borsa nera, no? E allora le scarpe blu non sono splendide? E infatti sono di Diego della Valle. Secondo te anche la camicetta rosa è di Armani? Non vedi che è di Crizia? Ah, sì, è vero.